ma per me freddo c'è senza te. E la gente passa e va, ride, gioca, scherza, ma no, non c'è nulla che valga te. Di colpo flash, io vedo il tuo bikini blu. Di colpo flash, in scena entri tu. Sei tu, sei tu, sicuro non mi sfuggirai. Ti aggancerò e non ti mollerò. Sembra vero, ma la mia testa in aria sta, non so più dove va, cosa fa. Di colpo flash.